10, si cucano alle 10, c'è qualcuno? Si cucano alle 10, c'è qualcuno in ascolto? Si cucano alle 10, c'è qualcuno che ascolta? Si cucano alle 10? Giulio, Giulio. Allora, non si vede, no? Oh, Gudomine, Anthony. Baby, su che abbiamo, baby. Oh, yeah. Yes, sir, here we go. Ascolti, sì. Nessun per il 100%. Sì, andare, andare. Sei forte, sei forte. Come aspetto, sono forte. Ecco che arrivano fortissimi qua, 7, 8, tu sei 9, 5. E cosa, stranieri? Eh? Ecco, chi è che arrivano forti? Questi stranieri. Ah, e la bella luce. Oh, io. Andata bene, vena. Non c'è nessuno qua in questo canale dei morti. Anzi, questo è un canale dei personaggi. È un canale di papiasso qua. Per carità. Canale di morti? Cos'è? Ho detto canale di morti. Come la mia radio, Manuè? Va bene, radio 75. Sì. Sì, a Puglia. Ora è Maratosa. Eh? È Maratosa. Ho capito. Sei Maratosa. No, è Maratosa. È troppo amplificata. Che Maratosa. Che l'ha detto Maratosa. Qualcuno l'ha detto, ma non mi frega niente. Cioè, è come chiedere un compagno Ferrari e andò a vinti che lo trovare. E non c'è che lei. Ammazza tu che non si capisce quello che dici. Gira, gira, ciao Natali. Ciao Tony. Ammazza che è troppo voce e non ti si capisce quello che dici. Non dico la semplificata, ma è incomprensibile quando è troppo. Guarda, ho passato un pochettino, va bene così. Cagala così, poni l'attac e non tocca più nulla. Poni l'attac. Avanti, Manuè. Biondo. Natali, non lo senti a 5, dai, dai, dai, biondo. Ma se quello è un brigido, già lo sento. Ciao, Manuè. Buonasera. Io ho acceso adesso. Sono stanco morto, cazzo. Sì, di bene, taglia di brida. E un sacco di cose stavo facendo e quindi sono un po' stanco. Adesso ho acceso a vedere se c'era qualcuno in questo canale di morti. Ho acceso io, anche io un po' sentito a Torino. E cappa. Allora, ma anche in tre stasera siamo entrati, non vi sarà entrato nessuno, non lo so io perché non era acceso, quindi non so se è entrato qualcuno. E quando ieri? No, stasera. Ah, in 30. Quanta persona eravate stasera? Una cosa, ho detto che ho acceso appena adesso, quindi non lo so se è entrato qualcuno prima. Ah, boh, era qualcuno. Se cazzo non va mai nessuno in su, perché sono canali. Ma chi che ne ha quei canali? Sta morendo la 27. Si sono disaffezionati tutti. Sono tutti adesso nei canali a quarta adesso. Tutti noi mi sono diventato. Meglio così. Poca gente, meglio questa. E ma mica qua, Natali, venga a me. Ho sentito qualcosa da un amico M che sono trovato una volta. Troppo perfettini, queste. Sì, non puoi farmi da quanto si può fare di noi, a me c'è cosa mi piace. Meglio qua, dai. È meglio qua, lì devi stare col rosario in mano, già lo sai. Non è come te, come, no, puoi fufunà come ti fufunè i minoghi. Sono diventati tutti santichi, no, è proprio lì, è sempre stato così, devi stare, anzi ne stanno anche abusando, perché dovrebbero essere più col rosario in mano là, invece anche loro qualche scherzetto già lo fanno. Comunque io stasera mi faccio la fedina, me la sono già preparato, l'impasticello sta riposando tranquillamente, poi più tardi, fra un'ora, un'ora e mezzo, ci mettiamo un po' di cipolle, la mettiamo nella teglia, un po' di olio d'oliva e vai! E lo fai col tango? Domani fai il panettone, vieni, Natale! Un panettone! Domani fai il panettone, vai! E chi? Tu! Chi? No, io non ci comparata, io non faccio panettone, io non posso fare niente! Col culo ti fai il panettone! Non ha capito forse. Parla. No, non l'ho capito. Arrivi troppo forte, ma non è, mi stai sordando. Ho detto che ti fai col culo e panettone, dall'odore. Ascolta, fai da bravo, ma non è. Tu, cazzo, vuoi fare niente, che d'acqua. Da poi cazzo si lamenta, che non è so più se fa la macchia. No, no, no, io pure, a parte scherzo, un po' di fai oggi. Oggi, fai lì, allora, ma sto facendo. Così elimino quel pacco già aperto e ne ho due pacchi proprio sigillati. Chi ne vuole gliene do? A te immaginare, Natale. Sì, a me, Nero Borromeo, noi ci vei, quindi no, non ne faccio per quello, se no già l'avrei fatto anch'io. Ma quel forno che gli avevi dato a Gianni, che sa che ha fatto il suo forno? E che forno? Un forno gli avevi dato, mi sembra, o no? Un forno grande, che gli aveva dato? Boh, un bar gli avevi dato, tu mi pare, o che me l'aveva dato? Boh, ma se era un forno ci stava, magari mi intero. Nella cucina io già ce l'ho il forno grande, ma non cucina vedeva, sì, a chi non mi ci dà vera fai niente, ho avuto corrisci da palla. Cioè, non cu tu vedi. Qua c'è sia sopra che sotto. Io ho l'elettrico, 180 gradi, un'oretta, sotto e sopra e dopo poco. E io ho provato, ma no, mi uscita male, là. Il mio a gas, non è elettrico. Ma sarà per quello, forse anche perché il gas non lo so, se regolare forse con la temperatura, poi non lo so. Era tutto a posto, eppure è uscito male. Io una volta l'ho fatta in pasticceria col forno elettrico, lì già mi è uscita bene, ma i noghi non coltivai, cruda e misura. E così da molto che non è uscita bene, l'hai scoperto almeno? Non lo so, boh, non ci sono riuscito a sapere perché è uscita così. Ma tu di passo hai fatto bene, hai potuto riposare almeno 4 ore. Eia. Non sono così sprovveduto, no, già l'ho fatta a riposare, più di 4 ore in buio, ma che l'ho già fatta al manzano e la sera della infurrata, però esci da male. Cioè, nel senso che non va cotto, mi. Sotto era bruciata e dentro era cruda. Io ho il frullatore, le fruse elettriche, quindi roba la... Io non so, è uscita la crema, è uscita. A me è mai uscita in mezzo cruda. Manuè, e tu, cosa sai fare? Il salsiccione, il sanguinaccio? No, io fare la mezzo cruda, a parte che ci vogliono gli ingredienti giusti, e poi la forma che c'ho io non va bene. Su 200 grammi di farina, io ho il peso pure, ci metti 700 di acqua, un po' di sale a piacimento, e bella, non deve mai di cruma di niente, poi deve riposare 4 ore dopo che l'abbiamo crostata, la fa riposare bene, poi oli la piglia, le metti 7 cucchiai di olio d'oliva e lei infonde tutto a bella unzio, così non si attacca. Poi di nuovo una bella schiaffettata, di nuovo la frusa e poi glielo metti dentro la teglia, ne metto data forte e scaldare, capito, a 280 gradi e via dicendo. Metti la cipolla sopra, la a posto. Ah, no, faccio per la conferma allora. Vabbè, c'è la soddisfazione che l'hai fatta tu, hai capito? Anche lì così non li posso più. Quindi siccome vedo questo pacco ha messo aperto, ho detto, ma dammi la posso oggi così, la tipo che si sigillate, quando le regale e basta, non le posso più, capito? Salute, boh. Oh, io vivo tempo, faccio prima fare a comprarmi le due, certo di bambola mai. Mi prendi tanta lì. Ma io mi hanno detto che ci vuole questa pietra che ci vuole dentro il forno. Antonio dice che cucina bene così. Entusiasmo, insomma. Boh. Non dovevo criticarti su questo. Comunque a me io l'ho messa e non me l'ha bruciata sotto, ma dentro era cruda. No, a me l'ha rosata sopra, sotto rimane diverso, un po' giallina, però dentro è cotta. Ma veramente bella. Se no il forno mio lì si non è a pietra, è tutto in metallo, se non c'è, ci sono i forni così, no, i forni quelli separati, diciamo, forno sotto e cucina sopra. Quindi, pietra, io ho bisogno di un maggio, e poi mi ci da me. E vabbè, ma lo tuo è elettrico, invece non mi è a gas. Sarà forse per quello che non riesci mai a regolare la temperatura, Natalia. Penso che sia isso, non lo so. No, più forti è, più devi cucinare. Tu non ci pensi di venire, devi essere alta la temperatura, ti devi dare quel po' di ruporro a Raffaele. Il futuro, ne sono sicuro. E tu gatta a cucinare domani. Ma papà, vai due a pilla. Io che la sera poco a 200, sono capito l'acquito. Quando l'osso di scimmiotto è acceso, mi toccate a buzzi in forroetta. Avanti, Mauro. Un attimo, mi assento, sono 5 minuti. Tutto lo va a fare io. Mi compagna, eh? Avanda, affittanda, chi tu. A che del periodo, Corareto, no? Devi incamerare che cosa? Ecco, Riccino, grazie. Come te lo bagno, no? Senti, per mettere un carico, va. Allora, la giubito che è madrullino, Corareto, grazie. Voglio che fa, ti devi mangiare, ti buco. Come no? Ma... Oh, io, Sant'Antonio, io, già. E vabbè, diciamo che sono messo di fare la massa. Dai, c'è sotto. Ecco, perché non posso... Alla benevena, devi lasciare. Ecco così, adesso va bene. E così, ma comunque, io oggi ho detto me. Me ne disfo di questa qua, che la bombera sigillata. Io oggi ho cucito tutti i 300 grammi, se la luce, anziché 200, e so con 100 grammi, già l'ho. Ho messo dentro, ho messo un po' di acqua in più, anziché 700 cilindri, ne ho messo 800 forse, boh. Già ci abbiamo attesi, Sì, infatti. Insomma, eppure io a Ginco l'ho conosciuto, cazzo, che era una secca di biliardo. E che è con te facile ballare? Anch'io quando la giocava crescimando. Cazzo, vai, è diventato una montagna. Ma si è un fiato, perché lui anche quando dorme mangia. Fuori dalla nebbia scenderà Recci. Dio Matteia. E me l'ha giunto la mano da tre parti, quindi dalle figlioccia, dalle padrino, anche lui ha messo un po' di ciccetta. E anche Emilio, il fratello, era magro quando era a scuola con me, perché siamo stati a scuola assieme. Cazzo, l'ha giubito da voi, cazzo, era diventato una montagna, chissà. Io non ho interruttore. E io mi sono poco lo stesso prima di Natale. E anche noi abbiamo piazzato comunque. Vabbè. Tu invece l'unica, no, tu ci rimasto la vita, boh. E cosa vuoi? Cazzo, io sono arrivato a pesare 52 kg quando era malato, eh. Adesso già mi sono ripreso un po'. A me qualche chilo l'hai messo sopra, sì. Già un grido. Hai fatto bene. Io mangio il teatro a macchina. Guarda, macchina, non lo faccio a macchina, forse. E tiro tutto la mattina nuovo, tutto. Cazzo, è un bombo. Ma lo sai, è perfetta, silenziosa. Niente, ma se lo cambiano domani. Ha detto, oh, perfetto, tu lo mantieni nuovo a Giusotto. E tutto, tra Madonna, tre cose la Talisse, 162 euro sono portati. Tra Pizzi e Madonna. Aspetta, Tony, che devo controllare un attimo la lavatrice che si è bloccata. Ok. Ma qua quando aveva la macchina. Adesso è perfetta, Manuè. Cazzo, gli ho detto, se cazzo gli ammortizzatori, dite, che cazzo? E l'hanno tutti cazzo malati. No, ammortizzatori non li ho messi ancora. Allora, gli ho messo la scatola guida, nuova. Poi ho messo i giunti motrici con i semiassi, poi ho messo le tessine, poi ho messo la tessina oscillante, poi gli ho messo quella parte che va sotto nelle marce, insomma, è diventata nuova. Che va sotto nelle marce? È una cosa, la cuffia del cambio. No, la si chiama Bielletta, si chiama. Una cosa intendo. Comunque già va bene, cazzo, ma senti tanto vedere di trapezza e manodopera. Sì, trapezza e manodopera sì. Manuè. Purtroppo. Io mi serviva la macchina, Manuè, se no la sentavo risparmiamo un bel denaro, però dovevi spedire fuori. Invece la compravo a fare corci, mi faccio a prezzi superiori, perché io ho visto un pezzo che costava lì, per esempio, 16 euro dentro 38, capito? E differenza, Ah, che la serve, già lo so. Cazzo, se va anche io nella punta lo stesso ci ho messo i soldi. Vabbè, anche di questa ce ne ho messo, però perché ce li ho voluti mettere io a fare i paraurti e verniciare i cerchi. Adesso, allora, mi dovrei comprare i distanziatori perché c'ho i cicchioni in lega, però non è che mi interessa più di tanto, Emanuele. Ma se non avevo uno, eri tu, che sono i cerchi più da 15. Io ho i cerchioni in lega da 15, però dovrei prendere due distanziatori da me anteriori, giustamente, capito? Ho detto meccanico, Valentino me l'ha detto. Se diventi distanziato due sei perfetto, perché io ho detto, quando vado a 140, 150, mi vibro leggermente davanti, cioè, ho detto solo i cerchi in lega, perché tu non hai sei distanziatori, quando ce l'avrai sei perfetto. E allora fate le mette, cazzo, se cammini da un di vibro lo stesso non andava, no. Non vibro lo stesso, è fermo, una conoscenza mangio come l'hai fatto. L'altra volta c'è da un po' vibrare, poco. E allora fare le mette, se vanno una cazzata di spese, va tu più. Ma non so dove andare, cazzo, guarda io quello stesso non ho portato materiale, ma detto, no, io non ho entrato. Devo andare a una frugo, me l'ha detto, non me la metto più. Oh, io su internet, non costa molto. Chiama 12. Però non è che mi fido da sé, perché a me mi ha detto, guarda che devi dire in che macchina vanno, che cerchio che stai montando, eccetera, eccetera, quindi. Ma quella macchina lì può portare solo qua i cerchi da 14? No, sulle prezzo c'è scritto 14 e 15 pure. Ah, così è. Sì, però ci vogliono i distanziatori. Invece adesso l'alluminio va direttamente al cerchione, direttamente col blocco, capito? Vabbè, non lo sai tanto, ma lui io a Cicurrimi, quando io vado a 93 si trovizia da me, va bene, troppo incorrere. Che cazzo la tua quanto è? 1400, 1600. No, la mia 1200, 16 valvole e poi ho messo il coso che mi dà cavalli in più nella centralina. Che cazzo, ma ti costa un bel paro, cazzo. No, con questa gigio mi consuma anche di meno, lo vedi? Se lo tocco consuma di più. Questo ti dà più velocità, più tutto e più consumi meno. La mia è un 1000 e un ciolo, vabbè, per quello che è, cosa cazzo vuoi, però 130, 140 è fare. No, vabbè, io l'ho tirato a mattonetto massimo 170, 180, capito, e poi i pendivi saranno 160, cosa ne so, ma a me non mi interessa, ma vabbè, è arrivato a questa età, cammino piano, me ne fotti tutta, che si ammazza le lastre, tanto, vedi, sempre in guasa, guidendi. Quando vado a 100, 110, quando sono sulle quattro corsie, va bene. Se no, altrimenti vado a piano e boh. Ah, ma come che era rapida? Adesso ho già tutto un altro meno di autovelo. Dove sei tutto un altro meno di autovelo? Che sassari. sorella del padrone. Ehi, ragazzo, non va. Certo, peccato che non ti fa se ne danno. No, si mette su un trasasciugo che è ancora esploso sotto la mia cucina, quello esplode. E col martello, come volte a fare dei bini, col figlio. E l'ho fatto ieri, quando è? 3 giorni fa, di notte alle 9. Ho chiamato la polizia municipale, venuta, e gli ho detto, la prossima volta adesso piazzi su. Capito? Perché lì, di notte, schiamazzi, di notturne non le può fare. E di giorno, dalle 13 alle 17 non può fare casino. Comunque, metto a me la polizia municipale, faccio un esposto per il rumore che sta creando, per disturbarla. E poi vediamo cosa fare. Insomma, non mi accattuisce da Giovanni, ah no, per lui c'è carabinieri pure, per minacce. Quindi, non so cosa dice chi c'è. Ma questo è il caso fuori testa. Cazzo fa, rispetto a bambino fanno, cazzo. Ma anche Roberto vicino a casa mia, ma cazzo, si può tornare anni tra me e se fa. Ma anche i bambini non fanno quello che stanno facendo. Poi, quando mi si vicino entrato in casa di notte, poi sono usciti, ed era in debrazzo, e mi ha detto Roberto, mi mi rubuffo e fede, cazzo te manca. E poi trovate pure all'asse, non si va della Pagonia. Cazzo, vai vabbè, basta. Vattari, ci sei. Andato se ne è. Certo, mia cosa, lui, ciao Tore. Dimmi una cosa, dove sta uscendo? È cupa la modulazione, ecco. Pare detto barato. Ma tu sei per Ducchelli, senti. No, sto uscendo con un altro microfono. Guarda dove è adesso. È cupa, siamo detto barato, barato. Ma voi vi sta vedendo un chip, non si conosce, tappa, 500 euro su internet. Così è, ma adesso? Cazzo, collega, guarda, non si comprende nulla. Ah, ma che cosa si comprende? Peggio di prima. Esagerato. Collega, esci male, Tore. Ma ecco perché c'è, adesso ancora c'è. Adesso non va bene. Ma va bene, ho aumentato di tutto. Radio Zero. Adesso? Adesso sei uscendo. Deve essere l'affare che non va. Ma lo è. Figa, ma adesso già va bene. Prima non stavo uscendo. Andiamo via, andiamo. È un casino. Questi baracchini più è tu che più è casino. Il microfono che sto provando. Ma era brutta come radio. Ma brutta è. Un barato. Sembra dentro un barato, così è, no. Hai detto così. Ma è un po' cupa. Tu ma vuoi, come lo senti? È cupa uguale, lo stesso. E sembra che è dentro un portone, boh, dentro una camera piuta. Non lo so cosa c'è. Potrebbe essere qualcosa di brutto. Vabbè. Dai che io vado a scortare a farmi qualche cosettina che c'ho un po' di appetito, dai. E stuzzicami l'appetito, perché quando fa la fede io mi muovo la maglia tutta mi rubrica. E adesso mi stacca anche io, mi faccio la doccia, che domani ci devo uscire alle 5 e mezza. Ah, vabbè, qui a te voi che trovate, dai, lavorate voi così mi pagate la pensione a me. Ok, dai, ciao Manuel, ci sentiamo, ciao Tone, ciao Natalina, sei a carino ascolto, se sei entrato, state di bene, ciao ciao. Ciao a tutti, ciao a Tone, ciao Natalina, via di certa. Ciao Tony, ciao Manuel. Natalina deve essere andata a confessarsi.